scuro su 10, a 110, hola, a 110. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Certo che ti ascolto, ciao Gianni, buonasera. Sì, sì, Santiago 9, qualcosa, radio 5, perfetto, va bene. Una modulazione è meglio dell'altro che stavi usando ieri. Non si è andato male allora. Se lo faceva l'officina turitana volevano 600 euro solo per lo scavo. E poi tutto il materiale di consumo, tubi, raccordi e balle varie. Quindi non si è andato male. Sì, sì, lo sciogli, glielo butti sopra. Cioè va bene. Ma come regola devono bitumare loro, capito? Lo scavo, la cifra e tutto il concordato devono bitumare, non devono lasciare la strada aperta, devono chiudere e ribitumarla loro, capito? Sì, ma stai a recuperare, a fare, vai al brico, prendi due sacchi di bitume già pronto, glielo butti sopra, due colpi di pala, poi quando passano le macchine già si abbassa da solo, già, ma cosa stai a sciogliere, a fare, a incasinarti la vita, fai un fiago, un chivi, e fumo nero, lascia perdere, fai prima a comprare due sacchetti di bitume già pronto, li butti sopra e le passi due o tre volte con la macchina e vedi che si allinea da solo. E vabbè, i vecchi vintage sono tutti omologati, di vecchia generazione, non c'è un problema, poi il barchino omologato, magari ne tratta più. Poi ho preso stamattina su internet, ho comprato un Tanner più 3 grigio americano, originale americano, ma gli è solo base del bagaglio, 80 euro più 10 di spedizione, sono 90 euro, vabbè, comunque nuovo nuovo, metto che non è stato usato pochissimo, e così lo metto al DAC, capito? Lo metto al DAC, faccio le connessioni giuste senza prolunghe, lo metto al DAC a vedere se la modulazione è migliore di quella del più 5, ma qui c'è tonalità troppo acuta, capito? Sicuramente bisogna tenerlo basso basso, non so. Quando arriva lo provo e poi vediamo, facciamo la prova. Per me andava bene anche il più 5, però Roberto ha detto che è più va meglio col Tanne più 3, proviamo. Adesso quando arriva, sicuramente arriverà mercoledì. Vediamo un po', va bene. Ma anch'io ne avevo due, uno l'avevo regalato, uno l'ho dato a Roberto e l'altro l'avevo dato assieme alla radio che avevo venduto, capito? E quindi adesso me lo sono ricomprato e lo proviamo sul DAC, se va bene, ma dovrebbe essere molto acuta la modulazione, sicuramente, molto, molto acuta. Vabbè, comunque quando arriva lo proviamo, vediamo, poi si vedrà, insomma, già ne ho altri microfoni, c'è anche più due a tavolo, quindi, per i baracchini vecchi. Va bene, va bene, ok, speriamo non piova domani, che palle sta pioggia. Ecco. Va bene Capri, dai, sentiamo dopo le prossime, avanti Roberto. Ciao Capri, mi hai sentito anche se sei andato male, se ci sei dopo. Ciao Capri. Ciao Roberto. Stamattina poi mi sono dimenticato, te lo devo dire poco fa quando ero da te. Trovato un Tanner più 3 grigio americano, forse lo vado in bagaglio, 80 euro più 10 di spedizione, dovrebbe arrivare mercoledì, così lo provo sul DAC, ma io ho una tonalità molto acuta e quindi sicuramente spinge un bel, bisogna tenerlo basso. Vabbè, 80 euro? Sì, 80 euro più 10 di spedizione, nuovo, c'è il connettore a 4, sicuramente sarà da cambiare, era di un praticamente di un radioamatore che lo usava su un vecchio 130 della Kenwood, PS130 della Kenwood, c'era il connettore a 4, capito? Tipo il connettore che c'è tu sul TS700, quello che ti ho dato io. Ehi, ma questo è quello del 440? Sì, questo è il 440. Una bomba quella. No, beh, è sempre andato benino, no, poco lo sto usando, di solito sto usando l'altro. Adesso stasera ho commutato, sto per farlo andare un pochino, e ci scarica tutte e tre, roba di nuovo forse. Tu le scarto, a volte uso uno, a volte uso l'altro, intanto sono 3 MC60, uno per ognuno. E niente. E vabbè. No, non già va bene, quando l'avevo fatto mettere a posto, è tornato perfetto. Ma va bene, la tua sta funzionando sempre bene, sì. No, ho capito, là? La tua, il tuo 440 sta funzionando bene, sì. Sì, è questo qui che sta andando. Volevo farti sentire la 140, vedere che è la differenza tra questa modulazione e quella del 140. Prova a farmela sentire, poi ti faccio sentire l'altra io. Questo è il 440, poi commuto all'altra. La 430 mi dici se è diversa la modulazione, prova. Memorizza questa modulazione, questa è del 44, la matta attacco 140. Prova a vedere. Questa è il 140. Sì, non cambia molto, Roberto. Sembra un po' con i medio bassi questo, ma comunque la modulazione è sempre quella, non cambia niente. No, dico, il livello microfonico è simile. Sì, sì, moltissimo, va bene. Adesso te lo faccio io il cambio, guarda, questo è il 440, adesso commuto ti uso il 430, guarda, scusa che vado a sfruttare il canale, se no mi fa rientro, lo cambio di banda. Questo è il 430, vabbè, cosa cambia? Dice sembra più amplificato questo qua. Più amplificato e vabbè. 430 è sempre così, leggermente si nota sempre il cambio di modulazione, Robert, capito? Nonostante ci sia lo stesso microfono, però si nota lo stesso. Sembra più corposa qua la voce, più piena, dai. Poi non so se i livelli non li sto guardando, ti sto solo ascoltando con la colonia FM. Guarda, a 1,5 quasi 2 c'ho il 440 e 1,5 quasi 2 di Mickey Gain c'ho il 430. È che però il 430 prevale sempre, non c'è niente da fare. Ha una modulazione favolosa, a parte il ricevitore. Però la modulazione è più corposa, sì, come hai detto tu. Sì, allora sono sempre. Io non ho mai capito, tu mi dirai, è una filosofia costruttiva della Kenwood. Tutti gli apparati, dagli come lì a ESO, tutti quelli che cosa parliamo, gli HF, non ce n'è uno che riesca ad andare in AM. Cacchio, il Kenwood sono gli unici che ci vanno. Ma non solo questi, il 30, il 40, il 140, il C80, non solo, che questi sono i piccoli, ma anche in banda laterale i grandi. Se tu senti la modulazione che c'ha in banda laterale, il 940 che è mitico, ma non parliamo del 940, parliamo di quelli dopo, come il 950 della Kenwood, il 1000, capito? Cioè tutte le radio, anche HF di grossa dimensione, in banda laterale sono uno spettacolo molto molto molto bello. E anche in AM vanno bene anche quelle da AM. La Kenwood ha curato molto la parte AM, mentre la Ico e la Yaesu, guarda, io ho fatto la prova con 756 da cagare, Robert, scusa il termine, ma proprio da schifo, nonostante sia ancora oggi, già abbiamo visto le statistiche, proprio lì mi ha fatto vedere tu stasera delle prime 10 in assoluto, dove c'è anche questa, in banda laterale è una favola, in FM è una favola, ma in AM fa veramente schifo proprio, e con tutto l'impegno della mia voce, con l'SM20, con tutti i microfoni ICOM immaginabili, e addirittura con l'adattatore MC60 da Kenwood da ICOM, che spinge tantissimo ed è un bellissimo microfono, fa schifo. Perché non sono fatti per la M, hanno le cosce strette, solo la Kenwood ha le cosce aperte, capito? Se non avete compreso, fatti in banda laterale. In banda laterale qualsiasi di quegli apparecchi è una favola. Chi è questo uomo vecchio? È quello che è ammalato, ma già guarisco. Ecco una tariglia, non ti curi, no, non ti fai curare la voce, se no guarda che non c'è da scherzare. Sono preso antibiotico, io ho fatto una settimana di antibiotici per la gola. Ciao Natali, buonasera. E chi sta dicendo il contrario? E chi più di me ha appunto fatto l'esperienza Kenwood in AM? Io sono dal 1983 che uso il Kenwood in AM, quindi posso vantarmi di essere uno dei primi, perciò. le ho provate tutte e tutti i microfoni e tutte le radio, con qualsiasi tipo di radio, dalla Kenwood, da 120, TS120, TS130, della serie 1, della serie 8 la stessa cosa. Chi è? Aspetta un attimo, ripeti Roberto. Sì, comunque la parte di schietti fatela controllare, mettiti, secondo me devi prendere antidote, perché se ti prendi una tracheite non ce la scherzare. Sì, infatti non sto parlando, sto parlando pochissimo perché sono afono, mamma mia. Devo andare dal medico a vedere. Adesso ho paura, Ossidio, sai che prendo la ricaduta che è peggio. Basta metterti una bella sciarpa sulla bocca, te la chiudi bene bene in modo che non prendi aria fredda. Però tu devi stare attento a cosa c'è a casa, se c'hai pompe di calore, se vai con le stufe a coso, a gas, che quelle ti seccano ancora di più. Non ci ho acceso niente qua oggi. Non dico oggi, io sto parlando in questi giorni natali. Sì, c'ho quelle a una di quelle a cherosene, cioè, ma solo si fa freddo volte in attacco, se no no. Meglio. Questo cos'è? Che baracchino è questo natale? Un magnum. 45 HP. No, c'è un bel segnale, sei quasi 9 più 20, considerando dove stai, cacchio, arrivi molto forte. Sto usando 5 watt, perché sennò se alzo disturbo. Allora, questo segnale già nel doppio room non ce l'ha per farti, vabbè, lui è più lontano di te, però c'ha una bella posizione in alto e tutto quanto, tu c'hai il segnale leggermente superiore a già nel doppio room. E K, se alzo i watt, questo sale 50 watt, non scherza, solo che non posso perché sennò disturbo, e disturbare non mi piace. No, esattamente, tanto non cambia niente, se fai 9,20 o 9,25, esattamente non tutti. Basta che la radio sia chiara, puoi avere anche 8 di segnale, l'importante è chi conta la radio. Dimmi, io come ti arrivo di lì, Natali, che segnale mi dai? Sui 9,20, sì, qua. C'ho anche il macchine a metà, perché se alzo, guai. Poi non c'ho la voce adesso, quindi è inutile, te lo posso sentire di... Cioè, chiama poco di roba, c'è il gosto. No, sono un bel apparecchio, se lo fanno anche pagare quelli, sono parecchi, e poi li fanno altre modifiche. Io ho visto uno, 700 euro, su internet, dico mancanti, non so quanti watt li faceva uscire. C'era un dissipatore che era più grande del baracchino, dietro, però era su un camion, ce l'aveva. Non so se anche l'aveva fatto di modifica, questi finali a MOSFET grossi, 100 watt ci riusciva a farli dare. Lo so. Ma cosa mi affutta a me? Mi serve per parlare con quelli di vicino a casa e boh, figurati. Tanto mi do quattro gatti, cosa devi fare? Non ci sono più, i tempi di prima. Ne ho un altro addirittura uguale a questo. Poi c'ho il coso, come si chiama? Il President Lincoln. C'ho un altro 120 canali. Infatti me li vorrei vendere, cosa me ne faccio? Di più grosso niente c'è. No, non c'ho più nulla, no. E poi cosa me ne posso? Qua non puoi mettere antenne, non puoi pulire nulla. No, che magari se c'è problemi di qualcosa, di disturbi, con uno di quelli un po' più importanti, sono molto più filtrati, più selettivi, più stretta di modulazione, e magari creano meno problemi. Ma vabbè, ma tanto se non lo stai tirando il collo, stai usando come 5 watt, 4 watt. Allora, non puoi alzare di più che disturbi. Vabbè, disturbi e boh, non c'è nulla a fare. C'ho l'antenna troppo bassa e disturbo. Ma quanti metri di cavo c'hai tu per arrivare a casa? Sui 25. E l'antenna quanto è alto il palo? Poco è alto dal tetto. Capito, però ti ha fatto in un modo particolare, già te lo spiega, fatelo spiegare alla Claudia come è messo, che l'abbiamo messo insieme, perché io sul tetto non ci posso salire, se no sarebbe stata un'altra cosa. Capito, ma si vede dalla strada, passando nella zona, la Claudia principale, la tua antenna? Eia che si vede, dimmi fra. Hai visto quello dei trasporti chi è? Ti hanno avvertato? Quello dei trasporti, e chi? Non hai letto, non hai visto, mi dico io, guarda le 8:30, 7, quasi 15, 16 miliardi di evasione fiscale, società all'estero tutte incasinate, non pagavano nulla, capito? Questo nome è Bibomba. Un nome molto noto a Sassari. Perché non si può dire qua? Qua non fa, non fa. Guardate il videolino alle 8:30. Un nome molto noto. Guarda, Nathalie, per farti capire, c'ha la moglie che sembra che sia amministratore delegato della società, quindi passa guai anche lì. C'ha il bar vicino al Canopoleno. Una lettera di trasporto, e fattura sta questa cifra. Ah, ho capito chi è. Grande, aveva 700 rimorchi, ma te sei stato grossissimo, grossissimo, è un boliviano, case a tutte le parti, Portosi, Alghero, Terreni, un bel. E l'altro è uno di Equitalia, amico suo, a quanto sta facendo videolina, comunque è nostro, quindi io non lo dico qua, ma basta guardare videolina. È abbastanza noto e conosciuto, capito? Abbastanza noto e conosciuto. Qua stavo dicendo, vabbè, comunque. Ma dimmi una cosa, con la S inizia e finisce con la S? No, inizia con la S e finisce con la A. No, ho capito, inizia con che lettera? Firenze è letto o S? S come Firenze e finisce come A di Ancona. Molto corto il cognome, ma Natalino ha già capito chi è. Allora, c'è un bar che è una miniera vicino al Canopoleno, bar tabacchi, ricevitoria e tutte cose. Credo il cognome di aver capito, ed è così grosso quello. È molto grosso, Grosso? Ehi, me li hanno confiscato tutto. Tutti i beni, conti correnti bancari, e l'ha detto videolina, quindi è pubblica la cosa, però ma non mi valido perché io ho preso caffè assieme a lui esattamente sabato scorso. Sabato scorso ho preso il caffè assieme a lui, capite? Proprio il giorno della Befana. Sto parlando! Il giorno della Befana, che era l'unico bar aperto, capito? L'unico bar aperto, sono andato a prendere il caffè, le sigarette e c'era lui, non ci conosciamo molto bene e quindi non mi fa di dire il nome, eh. Ma c'è anche il Pullman questo? È un parente, ma non gli è niente. Ho capito, quindi comunque il cognome già ho capito chi sta dicendo. No, non pensavo fosse così importante, quello che ti ho detto io con la S e finisce con la S, so che è grosso questo. Sì, adesso stavo leggendo, ma c'è anche su internet e quindi è pubblica, due coniugi imprenditori, quindi c'è anche la moglie, no, la Sardegna c'è su internet, quindi c'è anche la moglie implicata e mi dispiace tantissimo, un po' succube quella donna di lui, però mi dispiace. E poi c'è un funzionario di Equitalia che è amico suo, che praticamente faceva gioco al vaglio. Addirittura, quello già li aveva crepati forte. Quello non esce più, perché è un funzionario pubblico, lo fa lo Stato, e c'è lo campino suo. E loro adesso sono messi male. Veramente messi male. Vabbè. E prendi Natalia, hai capito chi è? Sì. Mi è capato in grosso. Bravissimo. Padrone del mercato all'ingrosso mio. Tutti i rimorchi in entrata e in uscita, tutto ciò che entra al mercato, tutta roba, rimorchi a go-go, linee Livorno, Olbia Civitavecchia, Bimbumba. Diciamo. Avevamo 600-700 rimorchi, 400-500 motrici. A me quello che mi colpisce, dico la gente, cacchio, sai che adesso ci sono dei controlli allucinanti, nel senso banche, sei sotto controllo banche, telefono, carte di credito, è tutto super controllato, cacchio, e tu sei così imbecille di farlo tutto alla luce del sole. Il problema c'è anche per te, non mi capisco, ma io lo conosco, no? Una persona, insomma, non lo so, qualcosa c'era nell'aria, ma no, non c'è solo lui, attenzione che ci cade qualcun altro nel tranello a Sassari, perché ce ne sono altri che stanno, così c'è scritto. L'operazione non è finita della Guardia di Finanza, non non è ancora finita, quindi si suppone che qualche cos'altro esca fuori. Sì, chiaro, credo, se mi stai dicendo tutto questo di Giorgio di Sud, lì ci sono Mario Bassani, notai, avvocati e altre piccole aziende che magari sono del prestanome o cose del genere. Quando ci sono giri di questi soldi, io sto aspettando il motto di una persona che è molto grosso, però di tutt'altro campo, che questo fa dei lussi allucinanti. Ha detto già ti siedi piano piano per terra anche tu. Non sono invidioso, non mi interessa, mai stato, però siccome ci sono mudi e mudi di lavorare. Lascia perdere, beh, ti ho detto, ne abbiamo già parlato di queste cose, no? Noi scherziamo con Bruno, no, già ti vedo, eccetera, però bisogna stare molto attenti, perché i soldi non si fanno quando uno è onesto, i soldi si fanno quando uno è disonesto, quando va del fisco, quando non paga ciò che deve pagare e tutte cose, capito? Perché diversamente saremmo tutti molto molto benestanti rispetto a come valutano di vita, quindi lascia perdere. Io ho visto impresucce in giro di pochissimi anni, macchinoni, appartamenti, case, viaggi e lusso a tutto andare, in giro di pochi anni pizzicati, perché non pagavano il fisco, capito, tasse, IVA e quant'altro, assicurazioni di quelle a gogo da 4 lire, capito, buste paghe da 1500 euro, poi gli operai prendevano 700, caduti a culo a terra, e lì sta bene. Sì, non lo so, ma ce n'è anche in altri campi, di altre cose che non facciamo nulla. Cioè, adesso mi è venuto un altro, ce ne sono due di persone che sono molto a rischio di queste cose strane, che fanno lusso di macchine Ferrari, macchine di certi livelli, che non si sa da dove suicidio di là. Sì, vabbè, guarda, questa persona io la conoscevo, non è morta, la conosco anche abbastanza bene, capito? Una volta addirittura così a titolo di cortesia, per non stare a farla portare via corriere, sono andato, ho detto mi serve portare la moto a Olbia, quando io ero lì nel distretto di Olbia. Ho detto che problema c'è, portala giù il capannone, domani mattina appena fatto l'articolato, la mettiamo su e te la porto. Dove te la devo lasciare? Lasciamela, dove devi scaricare tu? Devo andare alla non so dove, comunque lì, alla fine di via Aldo Moro, giù, ecco, al supermercato grande che c'è giù allo svincolo per andare all'attaccante, lasciamela lì, poi mi faccio accompagnare da un collega e me l'ha detto. Così non ha fatto, non ha voluto niente, una persona che con me si è sempre comportata bene, però che invece un giro viziato, questo lo sapevo. Infatti poi quando inizia a fare tutti questi lussi, cioè, non lo so, però io dico anche l'ingenuità delle persone, cioè, io questo che non capisco, chi si che proprio si portano pure i soldi, cacchio, cioè, se ne fanno in certi modi le cose, cacchio, ma questi le fanno alla luce del sole, te li vedi poi macchine, ville, case al mare, cose, poi controlli la denuncia dei redditi, ma non vedi che non è congrua, cioè stai facendo delle cose che non sono, e non è manco lo Stato. E non è manco uno, e ricordati una cosa, Robè, dall'onesto lavoro non si diventa ricchi. Se uno diventa ricco è ricco da prima, oppure gioguaglio. Non lo so, non lo diranno purtroppo, cacchio, tu devi tirare la cingana, ma cerca di sopravvivere, poi vedo nella mia attività gente che non ha nessun lavoro, cacchio, uscendo con cacchio, facendosi crociere, facendosi case al mare, eccetera, eccetera. E quindi c'è qualcosa di strano, vedi bene, vabbè, tu già lo sai che ci sei in mezzo. Non lo so, purtroppo capi così. Poi ci sono quelli abusivi che si non ritrecca nessuno, vanno solo a controllare molte volte quelli che sono censiti, quando vengono quelli dalla ASL, quelli che fanno tutti i controlli dei rifiuti, emissioni di scariche, eccetera, eccetera. Vanno solo a cercare quelli che sono iscritti, gli altri manco le gagani, quelli che sono in campagna che ne scaricano l'olio, buttano via la mondetta, eccetera, eccetera, quelli non li cercano. Ehi, non stai attenti, ti ho detto Robè, bisogna stare attenti. Io ho visto il conto corrente mio gonfiarsi pochissimo tempo, perché ho ricevuto la liquidazione, ho ricevuto altri soldi e altre cose. Ho fatto la dichiarazione scritta ed è pronta al momento in cui dovessero dovessero contestarmi qualcosa, capito? Con tanti documenti, sia della banca, sia dell'azienda, sia di tutto, perché è molto pericoloso. Oggi con il redditometro, con le cose che ti vedono, ma io non va via un cito, ma in banca va via lo stipendio, due citi, lo vedono gonfiarsi così di botte, ma cosa è successo qua? Andiamo a verificare, capito? Dal momento in cui loro verificano, io sono pronto a dimostrare l'arrivo di questi quattrini, cioè, la casa è stata avuta in via San Francesco, eccetera, liquidazione, insomma, sono pronto a dimostrare tutto quello che loro vogliono vedere, perché bisogna stare attenti purtroppo. Ma di Danilo te l'avevo raccontato cosa gli è successo? Sì, già me l'ha raccontato. Certo, le aveva dato la moto il suocero, le aveva lasciato qualcosa alla moglie, si era comprato un camper usato, che tra l'altro si era pagata la rata, che era della zia della moglie, e più si era preso una barchetta, ma stiamo parlando, non ci fu esagerato, una barchettina, non uno yacht, una barchetta di 6 metri. Certo, ne sono giunti subito a controllare, a fare il controllo fiscale, eccetera, eccetera. E ha dovuto dimostrare tutto quanto, dicendo che quello che aveva avuto, il conto in banca, quelli che aveva messo, tutto qua. Figurati quando ci sono questi giri, si fanno delle indagini, io ho amici che lo fanno per lavoro, proprio l'altro giorno stavo parlando. Mi ha detto, noi neanche vi immaginate cosa facciamo, dice, entriamo nella macchina, lui ha, c'hai già le microscopie, non ti accorgi neanche, dice, quando tu ti sposti per prendere la nave, cosa, entriamo nella stiva della nave, questo lo fanno per lavoro, si muove la microscopia, microfoni, e stanno tutto vita miracolo di te, e poi non ci sei solo tu, poi ci sono tutti gli altri, quelli che parli, o che ha avuto contatto. Che sto dicendo, Robè? Noi immediatamente, dopo aver avuto la casa di San Francesco, è stato tutto documentato, perché intanto che cognato è un imprenditore, quindi deve documentare tutto, ma io non sono niente, ho fatto la stessa cosa, perché dal momento in cui arrivo al controllo io sono pronto a dimostrare l'arrivo dei quattrini. Pericoloso, Roberto, non funziona così, no? Vabbè, però queste che vanno al fisco così, caspita, o ci sanno fare, però poi col tempo qualcosa succede, non va nulla. Vabbè, lui, ti ripeto, ci conosciamo molto bene, ci siamo visti il giorno dell'Epifania. Il giorno dell'Epifania abbiamo preso il caffè assieme, infatti mi ha un po' criticato perché non sono più passato, però gli ho spiegato la situazione, sempre fuori, per il tipo eccetera, se no io la mattina passavo lì a prendere il caffè perché apre le 6, poi invece dirottavo da un'altra parte e quindi non sono più passato. E niente, abbiamo fatto due chiacchiere, mi dispiace, ma mi dispiace più per la moglie perché un po' succube, un po', capito, lui è molto, come si dice, di quelli che hanno, devi fare così come dice lui e boom, hai capito? E a me mi è parlato un po' come Fanfarroni, a chi lo conosco bene pure io, compreso. E Fibone, la moglie si è amministratore delegato, compreso, Fibone è proprio la moglie. Lui non risulta nessuna parte, lui non risulta nessuna parte. L'azienda sì, è lui B, però, capito? E ci sono giri allucinanti sotto, vabbè, comunque, ne saprò di più, insomma, adesso mi informerò meglio, comunque, sì, Natali quello ce l'ha sempre avuto, non tanto un fanfarrone, no? Molto, come si dice, di quelli che hanno tutto, che ha tutto lui e nessuno c'ha niente, capito? Molto snobbe, una persona che siccome c'ha i quattrini pensava di rivoltare il mondo, invece hanno rivoltato lui, e così è, vero Roberto? Già lo so, poi ce n'è uno faccia l'anima sua, impresario, che è morto anche da poco, che non ti faccio il nome, già lo conosci un altro, fisso, già ne ha bruciato poca di gente, e qua, non sai quante aziende ha fatto fallire, soprattutto la storia di quello lì. Sì, già ho capito chi è. Già ho capito. E vabbè. Io l'ho sentito anche a pranzo, però non sono stato attento. E invece mi hanno avvisato poco fa proprio gente che mi conosce, sa che lo conosco, eccetera, capito? Adesso ha detto, no, senti, guarda che l'hanno già detto, è pubblica la cosa, quindi non c'è niente da nascondere. C'è il nome dell'azienda, quindi è chiaro che lui e basta, non c'è niente da fare. È più il suo carissimo amico di Equitalia. Vabbè. Luigi Baredi, io ti ripeto, vabbè, no, ho niente da nascondere. È tutto documentato ciò che ho praticamente sia ereditato che lavorato per anni, per 40 anni, perciò non ho niente da nascondere. È chiaro che devi essere pronto prima o poi ad un controllo, anche se la cifra non è così alta, ma comunque è abbastanza consistente, quindi prima o poi è un casino. Vabbè, casino, oddio, quando vogliono non niente da nascondere, non ha giovato Druffi, sono soldi che mi ho lavorato, è una vendita ereditaria, basta. Sì, no, ma poi tu non hai niente da nascondere perché tu sei un dipendente, cacchio, ti ribidiamo alla fonte a te i soldi, non ti preoccupare. Magari un commerciante, un artigiano, è diversa la cosa, perché dimostrarlo è più difficile, però per uno come te che cacchio hai fatto tutti gli anni di lavoro, ti danno il TFR, poi se hai avuto un'eredità o quello che hai avuto è tutto dimostrabile. Sì, beh, sono stati tutti gli uffici, te l'ho detto anche stamattina, della casa di riposo di San Francesco, quindi c'era tutto il mio socio, perciò non tanto a me quanto a mia moglie, ma comunque lì sono, nel conto sono, perciò tutto dimostrabile. Bene mera, e ben Natalì, e quindi te se fa attende? Schifo! E allora se vedi schifo, va, prima che fate il mio schifo, beh, è di tutti noi, a fotti i denti. No, io ho fatto il cane poco fa, poi io ho chiamato qua sul 10, mi ha risposto Capri, e poi sei entrato tu, vabbè. Quindi stavi dicendo, rispetto al 440, questa è più forte come modulazione? Io ti sto ascoltando l'orecchio, non ti ho guardato con gli strumenti né con uno né con l'altro, però mi sembra più corposa, più forte l'assenza. Ma la lettera 430, vabbè, e anche questa roba è, un paio di volte l'ha presa in mano Fabrizio, e ha dato una cipaccata, ma me l'aveva detto, e che prima o poi mi lasciava a piedi, aveva cambiato anche il display, tutto nuovo, l'aveva un po' sistemata, poi ha iniziato a spegnerci da sola, mi si fulminava spesso la lampadina dello smitter, la prendevo a colpi, si riaccendeva qui e là. L'anno scorso, nel 2017, nel periodo di giugno, ho detto, ma questa la devo mettere a posto, l'ho messa a posto, chiamata Bianconi, e mi ha detto, sì, però mandamela a luglio, perché sto finendo alcune radio che avevo consegnato, vabbè, te la mando a luglio, l'ho mandata a luglio, l'ho ritirata a fine di settembre del 2017, perché poi c'era il periodo estivo, ero andato in ferie, io ero impegnato al lavoro, quindi non mi stavo occupando di niente. Poi mi ha telefonato lui stesso e ha detto, ma questo 430 te lo mando giorno, e io ho detto mandamelo, bene, non è che mi metti il cazzo, ho detto mandamelo, e me l'avevo mandato, capito? Avevo speso un 150 euro, perché erano tutti falsi contatti, tutte piste da riprendere, tutte tronzate, non ha cambiato come sciatura, mi pare una resistenza c'era bruciata, mi aveva detto, proprio me l'ha allineata, l'ha messa bene a posto, ho speso 150 euro tra riparazione, andare e tornare, una cosa del genere. E adesso funziona bene, infatti a volte uso quella, a volte uso 440, a volte uso anche l'altra, e vabbè, le terradio sono baracchini a sintonia continua, le chiamo io, quando si fermano, ho venuto a lavare. Io anche lo stesso conosciuto, me ne ha fatto un paio di radio, ma è una persona seria, nel senso non ti piglia in giro, ti dice quello, poi mi ha venduto il 7000, mi ha ritirato il mio ricerca 7000, c'era il problema, mi ha detto guarda, ci ho rotto un pezzo, è quasi introvabile, io posso chiedere, vedere, poi dopo un po' gli ho detto, ma lì se me ne trova qualcuno buono, mi ha telefonato dopo due giorni, guarda, è entrato uno in laboratorio ancora con la scala, nuovo, infatti il mio nuovo fiamma, ha dato la scatola, tutti i documenti, proprio nuovo, sembra una nego, te quanto ne vuole, ha detto se mi ritira il mio, te lo ritiro, e cosa ti do? Mi ha dato una cifra forfettaria, ma mi è andata bene, mi ha dato 100 euro, me ne ha aggiunto, adesso mi ricordo se me l'ha fatto pagare 400, ne ho dato 300, e me l'ha mandato, ma è arrivato subito, nuovo fiammante, ecco, sembrava uscendo dal negozio, io non so come cacchio faccia a gestire tutti questi lavori che c'ha lui, perché è pieno di lavoro, c'ha più di 70 anni, lo sai tu? Sì, sì, sì, lo so. L'ho conosciuto alla fiera, io l'avevo conosciuto, però più giovane. Lo so. Ma l'anno prima, fine proprio 2016, l'avevo mandato il 440 a fare, capito? L'avevo mandato il 440, quindi ci conosciamo bene, me ne ha fatto parecchie esali a me. Quindi però mi ha detto, sai cosa mi ha detto purtroppo? Adesso bisogna che lo telefono per vedere se è vero, perché gli avevo mandato lo IAESO per farmi gli aggiornamenti e mi aveva detto, guarda, forse questa è l'ultima volta che mandi la radio. Ho detto perché? Perché nel 2018 chiudo, basta, non ce la faccio più, faccio le cosettine mie, così, qualche riparazione a qualche amico del posto, però non voglio più impegni della clientela, ho detto che ho, e questo mi dispiace tantissimo, ho detto però non ce la faccio più proprio per l'età, capito? E quindi uno di questi giorni lo chiamo per vedere se effettivamente ha chiuso o se sta finendo i lavori che deve finire e poi chiude, perché me l'aveva già detto, nel 2018 chiudo tutto perché non si può più andare avanti, tra tasse, la mia età, eccetera eccetera. Infatti mi ha detto che era anche un po' giù di morale, perché le stava calando moltissimo la vista, quindi il lavoro le veniva un po' in salita, capito Roberto? Sì, no, la sua costruttore è vero, addirittura voleva chiudere entro dicembre, qualcuno, quello della Magnum, gli ha detto Frignani, gli ha detto no, rimane, perché lui ha detto devo prendere una decisione, o abbandonare la puzza dello stagno e cose del genere e prendermi un pezzettino di terreno, andarmene in campagna a fare quello lì o continuare, dice solo, tutti quanti hanno detto ma non mollare, scaccolano, c'era tutto un forum su di lui, siccome, ma decine di radioamatori c'era, ve lo rispondevano, dice tu mi hai riparato quello, a me mi ha fatto 2 440, li ha fatti due volte, più mi ha fatto il 140, era bruciato, nel senso erano partiti tutti i finali, poi mi ha sistemato l'ICR 7000 che poi me ne ha dato un altro, me l'aveva riparato la prima volta e poi la seconda volta, ma ti posso dire è stata una persona, e non è neanche caro, se consideri che magari vabbè il suo guadagno ce l'ho fatto, siccome in anni in che laboratorio vai ti crepano, lui invece è stato abbastanza onesto, ti dà la scheda di lavorazione, tutto quello che cambia, tutto quello che fa, e ti posso dire, non gli posso dire niente, è stato molto onesto nei prezzi. No, ma è onestissimo e poi molto preparato, poi insomma il lavoro lo fa bene, eccetera eccetera. È chiaro che i difetti che fa il 440 è un difetto oramai che lui conosce a memoria, come lo conosce anche, insomma, che tu ben sai, lì c'è a cambiare tutta il titolo dei commissatori, mettere tutto a posto, eccetera, di andare alla radio, però il lavoro c'è, Roberto, il lavoro c'è, perché a me non hanno mandato le foto. Poi il bello è che ti fa tutto l'elenco di quello che ha cambiato, te lo mette tutto dentro una bustina e te lo rimanda. Infatti io mi sono arrivato, ho detto ma scusa oh Carlo, c'è bisogno, ma no, io lo faccio a tutti, Claudio, non ti preoccupare, mi ha detto, no, non sono di quelli che, ho detto, ma a me non me ne frega niente, ho la massima fiducia, se hai cambiato tutti questi componenti, tutti che mi rimandi a me, io ci butto la mondetta, diciamo le faccio, non è che li devo custodire, capito? Scriveva tutto, sempre un fogliettino di carta, metteva lo scotch, una bustina e metteva dentro tutti i componenti, capito? Tutti i componenti, vabbè. Comunque è così. No, anche il 780 me l'aveva revisionato lui, quello che abbiamo visto la foto, quello stesso l'aveva revisionato tutto lui, è uno spettacolo. Va bene, che ore sono? Le 8, finchia. È un po' tardi, anche io adesso mollo e vado a mangiarmi qualcosa, dai. Già ci sentiamo signori, ciao Natalino, cerca di metterti a posto, ti voglio sentire squillante come di prima, ciao Claudio, abbassa la radio, mi si ammazzende perché è troppo forte, e poi tutti gli eventuali amici sul canale 10, ciao QRT, la parte mia. Ciao Roberto, io già bacio, questa è lì, è 1:30, forse stavo gridando troppo io, il bello del 4:30 è che no, che più gridi e più spinge, non è come il 4:40 che se sollevi molto la voce magari vai in distorsione, questa è così. Ciao Ro, dai, grazie di tutto, eravamo assieme anche stasera, al limite ci passo la mattina per un caffè. Ciao, buona cena, buon tutto, saluto chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10. Bye bye. C'è qualcuno che non sta uscendo? Chi è avanti? Chi per Capri? Non è andato a comprare un bel, ti ha detto. Lo senti questo segnale? Cosa, Robè, che c'è mia figlia che sta passando aspirapolvere, cosa hai detto? C'è questo segnale 95 che non si sente niente, però sta mandando portante. Chi è avanti che vuole fare? Forse qualcuno voleva salutare e ci sta salutando con la portante. No, Gianni è andato a... Vabbè dai, ciao ciao di nuovo a tutti, chiudo io, ciao. Ciao Robè, vuoi mancata la luce?